Tempo di Sport con Carlo Genta. Ora, caro Andrea Zozzi, non so se gli ascoltatori mi vogliono provocare, perché prima ancora dell'inizio della trasmissione arriva l'SMS 349-238-6666, ennesima sconfitta a testa alta per l'Italia del rugby. Ciao Andrea. E questa è una provocazione. Non lo so se è una provocazione, è la realtà, perché insomma 30-12 sul campo dei vice campioni del mondo. Partita impossibile, l'avevamo detto anche se l'anno scorso li avevamo battuti in una partita che per loro non contava, tra mille fanfare, a Roma. Oggi è 30-12, per l'appunto due minuti alla conclusione di questa gara, la prima Italia di Brunel. Un'Italia che insomma ha giocato con orgoglio come sempre, ha provato a metterci un po' di ordine, non grandissima abilità rugbistica, anche oggi, almeno da un punto di vista tecnico e un po' di stanchezza, un po' di stanchezza alla fine, sempre lì, cioè giochiamo fisico e poi ci stanchiamo, però voglio dire, ci vorrà tempo per Brunel, che ritengo scelta giusta, perché con gli allenatori d'Oltralpe siamo sempre riusciti a migliorare. Oggi tutti questi miglioramenti io non li ho visti, poi ne parleremo con qualcuno di più competente, però tant'è, insomma. Comunque guarda, nel messaggio stesso c'è un indizio di ennesima sconfitta onorevole. Le due cose non stanno benissimo insieme, nel senso che ci stanno sconfitte onorevoli, se si ripetono ennesime volte allora c'è qualcosa che non va. Se perdi, cioè come dici tu, se perdi sempre vuol dire che non sei tanto bravo, giusto? O comunque è la conferma di un livello dell'Italia che, con tanti atleti nuovi, è cambiata moltissimo questa nazionale, ha giocato davvero con molto entusiasmo, con molta determinazione, e poi alla fine il risultato contro questi francesi è ancora una volta a loro favore. Però davvero, ennesima sconfitta onorevole, di per sé è un messaggio che è contraddittorio in se stesso. 800 24 00 24, numero verde. Il collega Simone Spezia, che leggeva il GR prima, ha detto una cosa interessante in questi giorni: ma pensa se invece di essere Francia-Italia fosse stata Italia-Francia all'Olimpico di Roma? Con la Roma di oggi parliamo di neve, di catene obbligatorie, di partite rinviate, di treni fermi con la gente al ghiaccio, e poi andiamo lì. Olimpiadi, noi, io, la voglio io. Però Olimpiadi sono in agosto. Ho capito. Abbi pazienza. Flavia Carletti da Parigi, ciao Flavia. Sì, buonasera a tutti. Senti, mi dici, Flavia, mi senti? Sì, ti sento. Mi dici innanzitutto quali sono le condizioni meteo a Parigi? Allora, Parigi fa molto freddo, ma c'è il sole. Sì. Ieri sera c'è stato un po' di nevicchio, però probabilmente non ha attaccato, poi ha smesso molto presto, è stato solo proprio una leggerissima nevicata, quindi diciamo si è andati sotto lo zero, però oggi quando è iniziata la partita c'era il sole, in qualche parte dello stadio ancora godono di un po' di sole, anche se devo dire fa molto molto freddo. E lo stadio è completamente esaurito e meraviglioso, per la verità. L'Italia invece com'è, Flavia? Allora, la partita è finita in questo istante con il punteggio di 30-12 per la Francia. L'Italia non ha deluso completamente, ha giocato un buon primo tempo, anche perché comunque era la prima partita che giocavano entrambe le squadre dopo i mondiali, entrambe le formazioni con dei nuovi allenatori. Sulla panchina dell'Italia è arrivato Jacques Brunel, mentre invece sulla panchina della Francia c'è Philippe Saint-Saëns, quindi era una prova importante per entrambe. La Francia è stata un po' la solita Francia, con dei tre quarti eccezionali che quando iniziano a far girare il pallone sono velocissimi e riescono a fare delle azioni molto veloci e ad andare in meta quasi ogni volta che ci provano, almeno contro l'Italia. E in effetti sono andati in meta due volte nel primo tempo e due volte nel secondo tempo. L'Italia, diciamo che ha fatto vedere delle buone cose, anche perché ha messo anche dei giovani, c'è stato l'esordio di Venditti nel primo tempo dal primo minuto, e poi nel secondo tempo anche l'esordio di Mattia Bove, che è un po' meno giovane, però comunque anche per lui era l'esordio sia in maglia scura che nel 6 nazioni. Quindi diciamo che sono state viste delle cose positive, anche se comunque di fronte a questa Francia è difficile capire esattamente, certo, se alcune cose erano mancanze dell'Italia o comunque bravura incredibile dei giocatori francesi. Sicuro. Soprattutto nella linea dei tre quarti. Sicuro. Flavia, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie a Flavia Carletti. Dobbiamo fare i complimenti anche ai coraggiosissimi piccioni francesi. Sul campo tutta la partita, i piccioni. Era quasi una lotta territoriale con i rugbyisti. C'erano arrivavano alcuni slow, alcuni rallenti bellissimi, perché si vedevano le immagini dettagliate di una touche e sullo sfondo un paio di piccioni che volavano. Branco, un gruppo, uno stormo, coraggiosi questi, ma sai, combattevano con i rugbyisti, evidentemente hanno detto: questo campo è nostro, voi venite a romperci le palle ovali e noi a romperci le uova e noi stiamo qui, non è che ci spaventiamo. E volavano da un punto all'altro, bulicchiavano di qua e di là, ma non si sono. Guarda, io la sensazione che ho avuto così a pelle è che la Francia, ma in parte confermata anche da Flavia Carletti, che la Francia sia stata lì ad aspettare. È presente le classiche partite, vabbè, siamo più forti, la portiamo a casa, ma non ti dico con il minimo sforzo, però sapendo di essere superiori, quindi dall'alto della nostra superiorità tecnica dei tre quarti, che sono poi quelli, gli attaccanti, quelli che fanno il gioco. Sempre nella mia insipienza tecnica di rugby, però l'impressione è che non abbiano quasi mai il fiato corto i francesi. Bravo. E cioè anche quando l'Italia ha fatto delle belle azioni, anche quando si è avvicinata alla linea di meta, l'impressione era quella di poter gestire con tranquillità o la difesa o una azione per liberare l'area più pericolosa. Quindi la sensazione è un po' questa, è come se loro giocassero a una velocità di crociera, per noi italiani invece è necessario inevitabilmente stare sempre vicini al nostro massimo, e a quel punto si commette qualche errore in più che poi alla fine loro ci fanno pagare. Come se l'Italia giocasse sempre al 100% e loro al 65%, insomma. Adesso non saprei dirti la percentuale, anche perché fortunatamente non esiste la melina come si può fare nel calcio. Quindi il rugby è uno sport come basket, come pallavolo, in cui non c'è questa possibilità di addormentare un incontro. Bravo. Devi continuare a produrre gioco. È però vero che rispetto all'impegno totale e anche a quella preoccupazione, a quella frenesia, anche fisico, esattamente, alla fine noi siamo crollati, invece hai visto loro con delle lunghe cavalcate, erano più in forma. Poi devo dire, atleticamente sono effettivamente degli atleti vice campioni mondiali. 800 24 00 24 per parlare con noi. Ci fermiamo per il traffico, che insomma sarà il solito rosario di problemi in questi giorni, lo sentiamo e poi ne parliamo insieme. Ma se fosse stata a Roma, se fosse stata Italia, Francia, ma te le immagini che figura facevamo davanti al popolo del Sei Nazioni intero? E allora Capitan Parisse con Sky. Qualche rimbalzo, loro hanno avuto forse un pochettino di fortuna, ma il risultato forse un po' pesante. Nasce bene però questa Italia di Jacques Brunel. Sì, nasce bene, penso che ci sono tante cose positive da tenere di questa partita, e adesso bisogna preparare bene la prossima settimana l'Inghilterra in casa. Grazie mille, comunque complimenti Sergio. A voi. Così Sergio Parisse. Dunque, fosse stata Roma, te ne immagini? C'è Alemanno che dice: ma non, la protezione civile non aveva detto la verità, ci aveva detto quattro fiocchi, è venuta giù la tormenta, tutti i romani adesso prendete la palla, la protezione civile che dice: no, vi avevamo avvertito, lo sapevate. Poi bisogna spiegargli, bisogna spiegargliela a questi. Fai attenzione, perché se avessero provato a coinvolgere il grande popolo dei rugbisti, sì, e dire: ragazzi, spaliamo l'Olimpico. Secondo me, guarda. Ma come ci arriva? Con i treni bloccati, ma come fai? Guarda, che se tu coinvolgevi i rugbisti e davi loro la possibilità di dimostrare che ancora una volta avrebbero risolto una situazione che gli altri non risolvono, avrebbero cambiato, rovesciato Roma. Vabbè, allora, quando ci sono le Olimpiadi, se c'è un problema, se si fermano per sciopero tutti i tranvieri, non c'è modo di muoversi, coinvolgiamo, chiamiamo i rugbisti. Non mi prendere in giro su questa roba qui. 800 24 00 24, numero verde. Ma sì, ma il popolo dei rugbisti, ma poi bisogna, cioè, in una situazione come in Italia in questo momento, è effettivamente situazione di emergenza. Situazione d'emergenza che al solito, ma non raccontiamo niente di nuovo, facciamo un po' fatica a fronteggiare. Sì, è corretto. In alcuni casi la neve era veramente tanta. Sì, era prevista. È inverno, fa freddo, d'estate fa caldo. E bravo. Diego da Milano, buonasera. Buonasera a voi due. Dica. Volevo dire, io ho 57 anni, sì, e quando ero giovane i treni si fermavano uguale, ora si ferma uguale, quando ero giovane non vincevamo rugby e ora non vinciamo. Quindi è sempre tutto uguale. Sempre tutto uguale. Ritengo però che sul rugby si debba dire una cosa: intanto non è Italia questa, ma è Argentina B. Sì. Bisogna essere anche onesti su queste cose qua. Ma finché non si parte dalle scuole facendo veramente un'azione di base sui giovani e quant'altro, non riusciremo mai a vincere una partita con l'Italia A, con l'Argentina B neanche. guardi Diego, il discorso credo possa essere allargato e Andrea Zorzi lo sa meglio di tutti, dal rugby a tutti gli altri sport, sull'attività sportiva nelle scuole ne abbiamo parlato molte volte e molte altre lo faremo. Certamente l'effetto volano della partecipazione dell'Italia a Sei Nazioni, di questo grande allor che ha il rugby, ha portato molti giovani italiani a praticare il rugby, e questo è innegabile, questo è positivo e questo darà frutti a medio lungo termine. Poi per il resto, insomma, siamo ai soliti discorsi, lo sport nelle scuole, le strutture, eccetera, eccetera. Infatti dietro c'è ancora un equivoco che è vecchio di anni per quanto riguarda me e te, nei nostri commenti riguardo al rugby. Nessuno sta dicendo che questo fenomeno che è cresciuto negli ultimi anni sia negativo. È bellissimo l'interesse di molta gente nei confronti di uno sport. È bellissima la popolarità che questo sport ha avuto nei confronti dei giovani e anche nelle scuole. Dopodiché il discorso è quando si va a valutare in modo un po' più specifico la prestazione dell'Italia e lo spazio che occupa nei media il rugby, dice però perché al rugby viene concesso un metodo di giudizio diverso rispetto ad altri sport. Questa è l'unica motivazione per la quale ogni tanto sembriamo essere nemici del rugby, ma non è così, non è così per gli effetti positivi che ha avuto nell'ambito sportivo italiano. Ma poi Sei Nazioni è un grande spettacolo, cioè soltanto vedere una partita in uno stadio pieno di gente, cioè soltanto per la cornice vale 10 partite della nostra Serie A davanti a stadi vuoti. C'è una cosa che tu ti fermi a guardare anche televisivamente, tu mi insegni, la cornice è parte importante dello spettacolo che stai vedendo, perché principale addirittura. Sì. Ci sono alcune statistiche che dicono che quando uno sta facendo zapping, esatto, è lì che voglio arrivare, se vede un evento sportivo ciò che nota all'inizio è la partecipazione, quindi il pubblico, non tanto il livello tecnico di ciò che sta accadendo in campo. Si ferma lì, almeno si per un ferma, po'. Si ferma, se c'è. Poi ci potrebbe essere la partita di tennis più bella del mondo, Djokovic contro Nadal, ma se è giocata di fronte a 3 spettatori, tu non ti fermi a guardarla. Perché il primo impatto è, se non c'è nessuno che la guarda, evidentemente non è interessante. L'aspetto tecnico è sicuramente secondario rispetto all'atmosfera di attenzione che lo stadio quindi pieno tra un porta. Po' converrà davvero mettere le sagome di cartone negli stadi italiani del calcio? Beh, direi, ma credo che dietro ci sia non solo un aspetto televisivo, cioè noi controlliamo solo le conseguenze, però è abbastanza vero che quando uno sport, un evento sportivo non ha un po' di seguito, qualcosa che non funziona c'è. Questo non equivale al fatto che quello spettacolo non sia divertente, ma non c'è dubbio che nella catena generale qualcosa sia interrotto, perché o troppe partite o poco interessanti o via dicendo, se non c'è pubblico qualcosa da rifare. Poi se li fai giocare d'inverno la sera a meno 14, allora poi dagli anche una botta in testa quando entrano. Bisogna essere veramente masochisti per andare lì. Sono anni che in alcune discipline, quando c'è la diretta televisiva, i dirigenti provano a spostare dal lato favorevole alle telecamere quel pubblico che c'è, per dare almeno un'impressione che lo spazio sia occupato. Pino da Varese, buonasera. Sì, buonasera, mi scusi se disturbo, ma non disturba affatto. Ero in lista, poi non c'è stato tempo, ma volevo intervenire su Roma, per le Olimpiadi a Roma. Posso dire la mia? Ma come no? Benissimo, io faccio funzionario di banco 56 anni, le dico questo anche per via del conto economico che me ne intendo un po'. Io sarei dell'idea che le Olimpiadi a Roma non vadano fatte, perché l'Italia non ha bisogno delle Olimpiadi per attirare turismo. Io credo che un popolo, una nazione che ha il 75% delle bellezze naturali e artistiche, non ha bisogno della vetrina olimpica. L'Italia ha bisogno di promuovere ancora di più lo sport, e il signor Zorzi è uno che ne può insegnare a tanti, voglio dire. E come dicevate voi, gli stadi, le palestre a macchie di leopardo, questi sono denari che andrebbero utilizzati per promuovere, per fare in modo che lo sport in Italia i ragazzi ancora di più si dedicano allo sport, e anche per il calcio gli spettatori. Ma fare le Olimpiadi su una struttura, solo nel Lazio, ma non è un discorso contro il Lazio, solo nel Lazio, e dopo non servono, non mostrano che l'Italia è un paese di sportivi. L'Italia lo è già per i successi che già ottengono, ecco. Io questo vorrei dire, trovo che la vetrina delle Olimpiadi servono a paesi in via di sviluppo, bene. Il Brasile, bene, i famosi BRIC, quant'altro. Pino, l'Inghilterra, Londra non è Londra non è in via di sviluppo, però, eh. L'Inghilterra non è in via di, un paese in via di sviluppo, eppure io credo organizzeranno una Olimpiade intelligente. Sicuramente. Se non una grande Olimpiade. Olimpiade assegnata prima della grande crisi, Olimpiade che ancora una volta gli inglesi hanno avuto la grande capacità di rimodulare strada facendo. Sapevano che dopo Pechino occorreva cambiare strada, lo hanno fatto, lo hanno rifatto con la crisi economica e adesso ne usciranno seguendo un obiettivo che è molto chiaro. Per loro questa Olimpiade significa l'opportunità di far sì che alcune aree di Londra ridiventino, anzi tornino ad essere, o meglio diventino per la prima volta delle aree importanti. Lo faranno alla perfezione. Ricordiamoci un aspetto riguardo le Olimpiadi: il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, ha sempre deciso di assegnare questo grande evento a una città, non a una nazione, a differenza di quanto fa invece la FIFA con i mondiali di calcio. Ecco perché è importante anche, come diceva il nostro ospite Pino, richiedere alla città che li ospita un impegno particolare. Perché è vero che l'intera Italia potrebbe trarre giovamento dalla presenza delle Olimpiadi, però è vero che sarebbe l'area di Roma e del Lazio quella che più di altri potrebbe avere dei vantaggi, e quindi devono in qualche modo essere anche loro a fare sì che questo venga accettato da tutti. Ecco che è arrivato Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Ci siamo. Voto da casa, però. Voto. Non sono a Parigi. Ma guarda, io Più che di voto vorrei partire da una premessa che deve essere chiara. Siccome negli anni scorsi dicevamo sempre, alla fine però è giusto, anche se è cambiato l'allenatore, dire questo alla fine però la Francia ha segnato 4 mete e noi non ne abbiamo segnate. La Francia ha segnato, l'abbiamo detto, l'avete detto anche prima con i suoi straordinari tre quarti, tant'è vero che le due ali e i due centri hanno fatto una metà a testa, quindi sotto questo punto di vista effettivamente a livello di risultato è cambiato poco, anche se essere sotto di 6 punti a mezz'ora dalla fine con i campioni, i vice campioni del mondo in casa loro non è poi malvagio. La squadra ha sofferto per quasi tutto il secondo tempo senza però sbraccare completamente e pur subendo quella superiorità territoriale che invece nel primo tempo non si era vista. Ecco, per quello che riguarda il primo tempo, diciamo con una squadra atleticamente ancora in campo senza che avesse speso tutti quei capitali che ha speso, perché io penso che i due piloni oggi abbiano corso forse più di quello che hanno corso nell'intero Sei Nazioni del 2011. Riguardo al primo tempo, io alcune cose positive le ho notate. Ho notato più intensità, più mobilità, più copertura e occupazione del campo anche per contrastare i piccioni, forse questo non lo voglio mettere in dubbio, e anche più voglia di osare, ecco, non solo una difesa ma anche un modo di attaccare in una maniera un po' più varia, e anche a più ondate, mentre l'Italia degli ultimi anni spesso si affidava a un uomo per volta, cioè un uomo che andava dentro faticosamente in maniera prevedibile, l'Italia riconquistava sto pallone, dava la palla a un altro uomo che andava dentro e li si fermava, e poi il più delle volte calciavamo un po' anche per frustrazione e ridavamo la palla agli avversari. Ecco, qualche premessa di questo tipo io l'ho vista, anche perché bisogna considerare naturalmente il valore degli avversari, sì. e in questo senso devo dire che nel primo tempo gli azzurri hanno anche difeso bene, hanno fatto 2 errori e in quei 2 casi la Francia è andata in meta, e questo paradossalmente significa sì, abbiamo fatto quei 2 errori ma altri non ne abbiamo fatti, perché i francesi non ce li avrebbero perdonati, sì. Quindi tutto sommato c'è una partita fra 7 giorni all'Olimpico di Roma, sperando che non nevichi più naturalmente, un Olimpico con 72.000 persone, si dice che ci possa essere il tutto esaurito o quasi, contro l'Inghilterra, partita di grande fascino, per la prima volta in 6 nazioni all'Olimpico, insomma io direi aspettiamo e vediamo. Per il momento qualche seme Brumnel l'ha gettato, sì. e non gli si poteva chiedere neanche di ottenere, o perlomeno di far vedere la sua squadra. Non mi aspettavo niente di diverso a quello che si è visto oggi, che tu hai tratteggiato con grande precisione. A proposito del nuovo corso, Giacomo, forse ne avete già parlato, ma perché i due fratelli Bergamasco, che sono stati il simbolo dell'Italia rugbistica fino all'anno scorso, non sono più parte della nazionale? Ah, guarda, Mirko è infortunato e quindi credo che quello sia il solo motivo per cui non era in campo, perché anche come calciatore sicuramente può tornare utile, insomma. Mauro Bergamasco è tornato sui campi da poco tempo perché ha vissuto una situazione, se vogliamo, un po' paradossale, nel senso che ha partecipato ai mondiali, però nel frattempo lo Stade Français, il club nel quale ha giocato per 8-9 anni, lo ha lasciato libero e quindi lui si è trovato sostanzialmente senza squadra e ha ricominciato a giocare da poco negli Aironi. Quindi Brunella lo ha convocato, però poi ha detto aveva in tutto un paio di partite nelle gambe, lo ha convocato ma poi, diciamo, lo ha lasciato in tribuna. Brunella su Sky, sentiamo. Siamo una grande invia di giocare, di attaccare, di imporre qualche cosa alla squadra francese. È vero che non abbiamo fatto un equilibrio sufficiente sulla partita tra il gioco alla mano e il gioco al piede. Abbiamo avuto qualche problemi sul punto di incontro perché la difesa francese, il giocatore viene sul punto e con i piedi per dare un colpo di piedi sul pallone o per fare una pressione sul mediano dei mischi. Nel primo tempo abbiamo avuto questo problema e hanno fatto due o tre regali alla squadra francese, sta Natale avanti l'ora. Uno dei regali, questo, quella mischia che c'è. Jacques Brunella, nuovo CT italiano. Intanto Mauro Bergamasco, mi segnalano, ha appena scritto su Twitter, ha appena cinguettato su Twitter: peccato, retorica, purtroppo i pochi errori si pagano a questo livello, forza azzurri, da domani di nuovo al lavoro, i cambiamenti si vedono. Questo Mauro Bergamasco. Io ringrazio invece Giacomo Bagnasco, alla prossima. Ciao, ci Giacomo. Sentiamo, leggeteci anche sul sito del Sole 24 Ore. Ma certamente. Dunque 30-12 per la Francia, così finisce il debutto italiano nel 6 nazioni. 800-24-0024 invece è un altro numero, quello che serve per telefonare da Tempo di Sport, con me Andrea Zorzi. Ma ci sono anche vari messaggi: 349-238-6666. Poi ve ne leggo qualcuno. Però prima Gino dall'Aquila e Marco da Treviso. Terra di rugby, sia l'Aquila che Treviso, come sapete bene. Ma Gino, buonasera. Buonasera. Prima, un po' scherzando, dicevate dei rugbisti che si possono usare nelle emergenze per spalare, sì, i campi, eccetera. Gino, sentiamo Martin Castrogiovanni insieme in diretta, un attimo. Girata che ha portato la meta di Malesia, l'unica in cui abbiamo sofferto. Cosa è successo? Ci sta, penso che questo rugby è... E possiamo fare una mischia, a parte che dopo abbiamo dominato sicuramente, abbiamo perso una mischia, però a questo livello, vedi, fai una cosa male e viene punito. Penso che c'è stato un errore nostro sicuramente dalla prima linea, che forse non siamo abituati a farli, però lo abbiamo fatto e come vedi loro ci puniscono e perdiamo la palla e purtroppo non siamo abituati a questo, ma dobbiamo lavorare per non commettere neanche un errore, perché a questo livello vedi un placaggio mancato, una mischia persa è sempre stato meta ed è così, e questo è l'alto livello. Così Castro Giovanni, adesso Gino invece, prego. Dicevo, voi avete detto possono spalare un campo eccetera, ma io volevo ricordare, dopo il terremoto all'Aquila la stessa mattina i ragazzi dell'Aquila Rugby hanno aiutato a evacuare un edificio, ora non mi ricordo cos'era. Sì, quindi. Insomma, diciamo che il cuore dei rugbisti è sempre a disposizione, no, per no, per ma tutte le certo, Gino, se vogliamo fare i seri, questo è vero. Questo è vero, hanno fatto delle cose meravigliose, ce lo ricordiamo al di là del cuore dei rugbyisti, sono. Insomma, è gente che ha sentito questa necessità e che ha lavorato. Insomma, questo è indubbio, però il discorso che si faceva è un po' diverso. E sta nel dire, di fronte ad un grandissimo evento straordinario come il Sei Nazioni, fosse capitato in questi giorni in campi invertiti, pensate un po' tutti a che pubblico ludibrio ci saremmo esposti, perché poi vanno a raccontare agli inglesi, ai francesi, agli gallesi, agli scozzesi, agli irlandesi che nevica e non funziona più nulla. Questo è corretto, però se ti metti nei panni degli organizzatori di un incontro di rugby, sai che puoi fare affidamento sulla massima collaborazione dei tuoi appassionati, dei tuoi tifosi. Se organizzi un incontro di calcio, in questo caso, sai che i tuoi appassionati potrebbero essere coloro che ti creano ulteriori problemi perché lo stadio non è perfettamente pulito. In questo senso mi riferivo alla specificità e anche alla collaborazione che il pubblico del rugby poteva parlare. Ha fatto benissimo Gino a ricordare il grande gesto dei rugbisti di L'Aquila, ma questa è la verità, c'è proprio un rapporto diverso tra coloro che seguono il rugby e che invece hanno a che fare con altre discipline. Marco, buonasera. Sì, buonasera a tutti voi. Quello che ho sentito un attimo fa è perfettamente vero. Voglio aggiungere una cosa. Il rugby, sto parlando da Treviso, è uno sport serio che insegna anche a vivere in modo serio. Vorrei vedere la differenza fra i giocatori di calcio, gli appassionati di calcio, sgomberare un campo, a differenza degli appassionati di rugby e i giocatori di rugby. L'approccio sia della vita, del gioco e della vita poi fuori dal campo di rugby è completamente diverso. Voglio aggiungere un'altra cosa, di seri dubbi che ho nella serietà per portare avanti un progetto Olimpiadi a Roma, anche se sono un nulla. Basta vedere cosa è successo con i mondiali di nuoto, sulle infrastrutture e tutto. Ben volentieri, se arrivassero nel Veneto le Olimpiadi, faremmo sicuramente più bella figura che non a Roma. Saluto, arrivederci. Grazie a lei, Marco. Questo mi sembra un po' tanto, mi sembra un po', magari anche vero, ma un po' forzato. Questo non lo so. Dire loro a Roma gna fanno, noi a Treviso potremmo fare meglio. No, risuona un po' come un attesamento tipico di noi veneti in questo senso. In questi ultimi anni poi Veneto e Lega hanno creato un binomio talvolta un po' pericoloso. È però vero, cioè se lo dice Calderoli, voglio dire, Un attimo ad uscire da questa, come dire, legaccio politico e quindi lungi da me difendere ciò che direbbe eventualmente Calderoli, però è vero che se ci guardiamo indietro ci rendiamo conto che effettivamente alcune aree dell'Italia hanno saputo gestire e organizzare meglio alcuni eventi rispetto a quanto non sia accaduto in altre aree dell'Italia. Senti, ma a proposito di Veneti, ma questa storia invece della... ci torniamo un anno dopo, giusto? Dove? Parliamo dell'estetica. Sì, stavo cercando di capire. No, gli ascoltatori lo sanno, perché l'anno scorso, insomma, abbiamo detto, ho chiesto, mi è sventurato ad Andrea Zorzi, ma ti piace la nuova Ferrari? Ho fatto vedere la foto e ho detto, come faccio a dirti, è un oggetto, non lo so, possiamo dire va forte o non va forte, cioè, mi piace, non saprei dire. Quest'anno è brutta invece, quest'anno è bruttissima. Dicono che sia la peggiore degli ultimi anni. C'è chi ha fatto, evidentemente se ne intende molto, la lista di quali fossero le Ferrari più brutte di quella che hanno svelato ieri per problemi di neve, non live ma attraverso un evento via web. È brutta, c'ha questa mandibola cadente che oggi mi ha ricordato, assomiglia un po' al film che ha incassato Roger Rabbit, quando il lupo vede Jessica Rabbit, la formosissima Jessica Rabbit, gli si sgancia la mandibola, gli cade per terra. Ebbene, questo è il musetto della Ferrari. L'hanno battezzato in molti modi, sembra una balena, ha detto Montezemolo. Insomma, l'importante è che funzioni, che vada forte, perché per la Ferrari deve essere la stagione del riscatto. Tutti ci auguriamo possa essere la stagione del riscatto. Che sia bella, no, non lo è. non lo è, però è un oggetto. Le macchine di Formula 1, alla fine, nelle macchine di Formula 1 l'estetica non conta nulla, mi pare. Io faccio proprio fatica però a definire cosa sia bello o brutto, nel senso che quelle che dicono essere molto belle, parlavano adesso della linea della McLaren, di quella che verrà svelata dalla Red Bull tra qualche giorno, le definiscono belle esteticamente. Io davvero non ho un metro di riferimento, non so dirti in base a cosa si possa dire che è bella o brutta una macchina di quel genere. Proprio, e quindi mi sorprende che dicano che questa è brutta, esattamente come mi sorprende che dicessero che l'anno scorso era una bella macchina. 800 24 00 24, se volete parlare con noi. Ci dobbiamo fermare, però insomma io voglio chiederti, ma questa faccenda del calcio che si incasina tutto per ovvi problemi, per problemi reali che esistono, no, in questi giorni è abbastanza disastroso. Tu come hai vissuto questo, cioè come vedi questo rimpasto dei calendari, le partite che slittano e poi dicono no, giochiamo invece di sabato sera, giochiamo sabato pomeriggio, poi sabato pomeriggio no perché a Roma nevica, allora andiamo a giocare domenica pomeriggio e quella si gioca e quella non si gioca, il posticipo che diventa anticipo. Mi sembra una cosa che succede veramente solo qui. Beh, evidentemente sì, credo che alcuni altri paesi abbiano stadi che sono un po' più adatti a sopportare anche la neve. A me per la verità ha sorpreso, prima di tutto, questa complicazione di un calendario così spalmato che ha dovuto prendere in considerazione mille spostamenti diversi. Sì. Ma ciò che mi sorprende è che anche su questo ci hanno costruito sopra chissà quali strategie occulte. Cioè? Conte si è lamentato perché si poteva sapere in anticipo che martedì scorso non si sarebbe potuto giocare a Parma. Come il Milan ha fatto come Alemanno. Il Milan chiede il no, perché tu sei il Milan, te lo danno, ma se lo chiede il Palermo, il Catania, non va bene. Sì. Di fronte a una situazione in cui si sapeva che nevicava, ma se ne cade tante di neve e qualche disagio dovrai pure pagarlo. Qualche partita viene rinviata, ma questo non ha a che fare, secondo me, con qualche occulto gestore di una strana strategia. Sicuro? Andrea Zorzi, c'è un tuo amico. Ciao Andrea Lucchetta. Ciao Zorro, ciao ragazzi. Ciao, senti, ma mi vuoi spiegare perché hai chiamato i commentatori di Sky reparto geriatrico? Assolutamente, io ho scritto che se per caso i tifosi da casa vogliono, e ho risposto su Facebook, perché io su Facebook ci metto la faccia, mi piace condividere, e stavo rispondendo una ragazza ovviamente che stava ovviamente parlando e stava ovviamente discutendo sul mio stile di fare ovviamente le telecronache, e io ovviamente ho dato questo tipo di indicazione. Se volete comunque una telecronaca abbastanza piatta, ovviamente dal salottino geriatrico, non è un problema, anche perché dal mio punto di vista io ho tanti modelli a disposizione, ovviamente, che sono Federico Buffa, Peterson, Caressa, Bergomi, per cui ognuno di noi poi si può ispirare tranquillamente in base a quello che è un suo taglio, non solo per i capelli, ma con quello che fondamentalmente vuol comunicare, sempre tecnicamente parlando, condendo ovviamente tutta una serie di altre piccole cose molto interessanti che ovviamente fanno parte poi del personaggio. Lucky, ma senza nessun tipo di retropensiero. Adesso lo porto, adesso prendo Andrea Zorzi e lo porto a Villa Arzilla. Andrea. La telecronaca piatta di cui ci hai accusato. Senti una cosa, però dimmi, c'è un commentatore a cui un po' ti ispiri? Perché io ce n'ho un paio che trovo molto diversi ma straordinari. Se ne parlava prima nella pausa. Allora, Clerici del tennis per me è il numero uno. Sì, poi modalità diversa, Dan Peterson nel basket ha creato un'altra strada in Italia, e sono quelli che secondo me sono, ripeto, più interessanti. Come giornalista, Bragagno dell'Atletica lo trovo un altro grande commentatore. Sì. Confesso che, se posso, mi ispiro a dei modelli anglosassoni, coloro che alzano la voce solo quando serve e non possono vendere il primo punto, la prima partita di un campionato, come un pallone fondamentale. Questo è un po' il mio stile, piatto da reparto geriatrico. Ma sai, dipende poi da che piatto, no? Nel senso che se il piatto viene servito a un commensale che ha dai 50 anni in su, va benissimo. Tieni presente, Zorro, che però noi abbiamo a che fare anche con un pubblico variegato. Sai benissimo che la pallavolo viene giocata e vista al di sotto dei 40 anni. Il focus target del nostro riferimento è il 35enne. Poi ovviamente bisogna essere molto bravi e competenti, e penso che questo, i grandi commentatori che comunque Sky, Rai Sport ha in campo, fanno una squadra veramente incredibilmente densa di contenuti da poter servire su qualsiasi tipo di piatto, con un po' di una nouvelle cuisine, con qualche ingrediente che secondo me può dare il gusto, quel retrogusto in più, su cui poter eventualmente anche creare spettacolo, perché sappiamo benissimo che lo sport è anche spettacolo. E come comunque Federico Buffa fa, perché il mio riferimento, avendo due ragazzi che giocano a basket, guardo ESPN America fissi tutte quante le mattine e poi soprattutto seguo le telecom di Federico, e anche comunque, consentimi, anche Bergomi fa un voice over che è spettacolare quando deve enfatizzare certi tipi ovviamente di zone. Ovvio, non puoi mantenere quel livello sempre costante, questo sì, poi qualche sbandata in curva è normale che la possiamo prendere, Andrea. Beh, anche Munari nel commentare al rugby su Sky mica male, sì, Andrea. Sì, anche Munari, ovviamente è colui, sicuramente non ha un modello anglosassone, parte dal primo minuto all'ultimo con il pallone sotto braccio e inizia a macinare yard come il football americano su yard. Fatemi però andare in controtendenza. Con le tecnologie moderne, con le immagini meravigliose che abbiamo, con l'audio di campo che abbiamo, riscoprire un po' di silenzio in una telecronaca, visto che si parla di immagini, non è una radiocronaca, sarebbe quanto mai opportuno. E invece noi, in generale, abbiamo il problema del silenzio. Sembra che se non riempi continuamente ogni azione di nomi, di date, di statistiche, sembra che si stia facendo male il proprio lavoro. Io invece sono convintissimo che in alcuni casi sia molto più emozionante lasciare l'audio e un po' di silenzio a ciò che sta avvenendo in campo. Andrea Lucchetta, il rugby ti piace? Mi fa impazzire, io lo seguo sempre, ma... addirittura Zorro poi lo sa che nasce in una terra in cui abbiamo ovviamente regalato, donato e creato una valangata di giocatori per il sistema della squadra nazionale. Il rugby ha cercato di rapirmi fin da bambino, sì, e lo porta ancora tutt'oggi come riferimento per quanto riguarda la forza della mischia, l'andare tutti insieme, spingere in un'unica direzione, cercare di favorire il tallonatore per cercare comunque di portare a termine quell'azione che poi apertura la mano in fronte all'avversario, affrontare con schemi ma con il cuore in mano, comunque un gioco che per me è sempre stato di riferimento. Sì, però noi non siamo tanto bravi. Perdiamo tutte le volte. Io e Zorro facciamo battaglie da anni con gli ascoltatori. Anche a me piace, faccio il tifo, ma non si può perdere sempre. Sei nazioni ogni volta è una sofferenza infernale. E gli ascoltatori si arrabbiano, dicono: ma l'importante nel rugby sono altre cose. Io credo che nello sport l'importante sia anche vincere. Ma Zorro si ricorda benissimo nella pallavolo gli anni 80. Come sono stati duri, lui ovviamente stava bazzicando palestre, stava creandosi un gruppo fondamentale proprio per i 15 anni in cui la pallavolo ha fatto un grande salto di qualità, e il sottoscritto prendeva delle stampate in faccia dai russi, dai cecoslovacchi, dai bulgari, dai rumeni, girando l'Europa. Momenti duri che comunque ti creano e ti formano, però avevamo comunque un gran campionato su cui poter contare. Il campionato italiano fa fatica in questi anni, infatti i più grossi giocatori italiani vanno a giocare poi all'estero per mantenere quel tipo di livello. Non è facile, assolutamente. Poi con i problemi economici anche di mantenere delle rose è sicuro, sicuro. Diventa difficile. Andrea, ti ringrazio, buon lavoro Lucky. Ciao Lucky, è sempre un piacere, un abbraccio a tutti. ciao. Andrea, abbiamo ancora due ascoltatori e due minuti. Penso un po'. Claudio, provincia di Milano. Pronto? Dica. No, io volevo in qualche senso esprimere un giudizio favorevole rispetto a quello che pensa lei e il suo ospite, cioè il fatto che il rugby mi ricorda molto le squadre dell'oratorio, cioè con grossi valori si gioca per non per vincere, però cioè, i risultati sono un po' deludenti. In effetti Zorzi secondo me dice giusto quando è uno strano sport che non ha risultati eppure è famoso, diciamo, ascolto, ecco. Certo. È l'unico sport di professionistico di altissimo livello, di livello top, che nel quale almeno da noi si prescende dai risultati. Dalle altre parti non è così, Si parte dai risultati. Si parte dai risultati e poi si a volte non bastano. Bravissimo. Ruggero Milano, buonasera. Sì, buonasera, io volevo intervenire a riguardo il discorso che si faceva prima sulla disponibilità del pubblico, ad esempio di una squadra di calcio, a spalare un campo o cose di questo tipo. Sembra un po' una proporzione un po' sbagliata, nel senso che sospendere una partita di calcio è una decisione che viene presa in funzione di magari una massa di 65.000 persone che si muovono. E, ad esempio, io abito a Milano e se voi andate nel quadrante di San Siro quando c'è una partita di calcio non vi muovete, c'è una città che è dedicata a quello, quindi secondo me poi anche i motivi per cui si rinvia le partite e tutto, più che sportivi, sono realmente d'ordine pubblico, ma per la quantità di persone. Sì, no, questo è corretto. Come se fosse una manifestazione. È un po', quel paragone mi ha dato un po' fastidio, perché a me il rugby un po' m'ha stufato, nel senso. È bello, io, mia mamma è scozzese, quindi vengo da un paese che ce l'ha come tradizione, porto però, un cognome però, che è uguale dopo, al campo. Dopo un po', Ruggero, magari facciamo questo discorso un'altra volta con più calma, perché siamo davvero ai saluti. Ciao Andrea. Non me la sento di abbracciare fino in fondo l'equazione che numero di tifosi equivale a pericolo per l'ordine pubblico. Anche perché se no in altri paesi del nord Europa non si farebbe mai niente. Esattamente. Grazie Andrea, alla prossima. Ciao a tutti. Grazie Giorgio De Luca in redazione, a Pietro La Corte in regia, ci sentiamo domani alle 4:30. A tempo di sport.